Berlusconi riconosce di aver fatto tanti danni agli italiani nel corso dei suoi 10 anni di governo e per farsi perdonare prova a ripagarne un po', secondo lui cominciando dall'IMU pagata nel 2012. Dopodiché, se fosse coerente con la logica riparatoria dei danni provocati, dovrebbe restituire anche la maggiore IRPEF che abbiamo pagato grazie a lui, dovrebbe restituire la maggiore spesa per interessi sui mutui che le famiglie hanno pagato a causa dell'aumento dei tassi di interesse e così pure alle imprese per aumento del costo del credito che hanno preso alle banche. Insomma, mi pare che se dovesse prevalere questa logica riparatoria, Berlusconi avrebbe molto da dover ripagare. Si tratta invece, come evidente se si va oltre la propaganda, delle solite promesse, esattamente quelle del 2008, che poi, come è noto, sono finite in più tasse per tutti.